No, non può essere diversamente. Comunque, facciano come credono. Betonia, io cosa ti racconti? Comunque, buonasera, circa. Che c'è caldo. Condizionatore, ventilatore acceso al nastro, quando esco in macchina, aria condizionata e via. Comunque, cosa volevo dire? Niente, hanno fiero di migliaia di euro per venire qua e fatti per delinquere. Non stanno scappando dalla guerra assolutamente, lo sappiamo. Stanno scappando. Caso strano, solo giovani. Non vedi ragazzini, non vedi donne anziane, non vedi uomini anziani, solo sempre giovani. A me che ci sta a luce. Io sono diventato razzista, me ne vanto. A me se mi capita c'è uno che non si punta in cavaliere, lo cazzo in ghiaccio, non me ne ha fatto nulla, tanto non mi ha fatto nulla. Mi diceva contento, che me ne frega. Intanto, quando non vengono fidato in bella culo, non ti nasco. Non li posso vedere, li odio, non me ne ha fatto nulla. Per ciò che hanno fatto, amica mia. Va bene, comunque, vado le ciaramelli, io stasera mi voglio mangiare qualche pizza al taglio, alla croccante, ci vado e me ne prendo. Finna giornata, raga. E poi qualche bella angurietta, perché ci vuole del sorto periodo. Comunque, Giulio, caldo e ancora più caldo, 40-42 gradi e siamo belichi e fritti. Chi c'è in ruota, Gianni? Avanti. No, non sono tutti così pelottoni, perché i senegalesi sono bravi, lavorano, vedono quelle mercanzie che hanno loro, calze, tutta questa roba qua, e si guadagnano i soldi. Non sono tutti uguali, bisogna distinguere, non è perché sono neri che tutti quanti si può fare l'erba un fascio. Quelli cattivi sono i nigeriani, e non tanto lontano, proprio ieri stavo parlando con un'amica, mi ha detto che ieri sera si è girata mentre era al computer e si è trovato uno di colore dentro casa e ha preso la mazza da baseball, perché lei abita da sola e si è difesa con la mazza da baseball, la voleva violentare, capito? O voleva rubare, che ne so, si era scappato di nuovo dalla finestra, lei abita al piano terra, quindi capito? Se l'ha trovata dentro casa e c'è le finestre, le lascia aperte perché c'è caldo, dovevo stare con le finestre chiuse. Comunque sono il 10%, il 15% massimo persone tranquille di questi africani, io li chiamo africani che è tutto un calderone. Là se tu vai al corso Vittorio Emanuele, la parte bassa è tutto un casino, fanno casino, tu la notte non puoi dormire, non puoi dire niente perché sennò ti fa del casino, capito? Noi lo sappiamo da persone che abitano lì, che non ne possono più, stanno venendo a casa, stanno scappando dal centro storico del corso Vittorio Emanuele, grazie al sindaco e anche al prefetto che li fa entrare in obbligo, ci guasti. Io ho già preso una decisione, sto dando via tutto qua, piano piano, e me ne sto partendo in Spagna, sia da Villaluce, a Tenerife, così risparmio, mandino a fanculo tutto il governo italiano e le tasse che mi stanno mangiando, puzzinosi dei vegani, però chi ce ne che li dirà sempre l'accoglienza, le dirà e tutto quanto, massimo per luci. Avanti Giulio, poi facciamo, non so che c'è ruota. Sì, te li faccio girare subito perché sono da un po' in parcheggio. C'è Vittorio da Monteoro e c'è anche Luca. Luca, riprendi. Vai, riprendete voi, chiudo Giulio. Ciao. Bravo, ciao Luca, ci sentiamo allora le prossime. Avanti Vittorio. Ciao Luca, buon proseguimento. Sono belli, però noi ci lamentiamo, però non stanno facendo niente per risolvere questo problema. Perché non si può trasferire l'Africa in Italia e non solo. E questo qua Vittorio. Ciao Luca. Niente, io sono un po' di tosse, ho cambiato apparecchio perché non mi stava piacendo quello che stavo usando. Niente, è inutile ripetere le stesse cose che si dicono, eccetera, eccetera. Purtroppo la situazione è questa e dobbiamo soccombere. Cosa vuoi fare? Io no, quello che è Vittorio sì, già comunque mi hai sentito. Io sono Vittorio Volpe, da Sassari. Ok, già comunque mi hai sentito. Non ricordo questo tuo nome, Volpe, non mi è nuovo, però non mi ricordo. Un nominativo molto vecchio, è là. Beh, vecchio. Questo tuo io sono Nicolò, non ti dice nulla se sei molto vecchio. non ti sto comprendendo bene, e la tua modulazione è troppo amplificata, va un po' a distorgere, scusami. Aspetto, ho abbassato, va bene così? Hai migliorato, sì. Ho detto, Tonino San Nicola, ti dice qualcosa? No. Allora andiamo più avanti degli anni. Tonino Kawasaki. Kawasaki. E sono io. Se tu però hai un'altra modulazione, io ti sentivo più calmo, più pacato, adesso sei troppo frettoloso parlando. Gianni, tu come mi hai conosciuto tempo fa? Anche io. Io ti ho conosciuto così, sempre uguale. Quindi, non è che io cambio, è la mia modulazione, cioè la mia parlantina è così, è sempre stata così. Chi mi ha conosciuto tempo fa è sempre questa. Non è che sono andando accelerando. C'è uno più invicchia e tu accelereggia. Aspetta, mi sa che adesso mi fa, o Giulio mi faccia assumere a fare la pubblicità. Ti sei fatto fare la centralina. C'è lungo la turbo. Cavagava. E vabbè, lui si ricorda così, ma io ci ricordo sempre a Farradori. Quel caso non si tocca. Torino, non si dici, quelle cose digli, non si dicono. Tu mi hai conosciuto, io perlomeno ti dico così. Io ti ho conosciuto uno che si fa rispettare. La parola Farradori bisogna togliere dal vocabolario, anche se è detta in sassarese. Toni. Cappa, io sono pure caro dal cuore, si petto. Però non mi calpestate le dita, tutto qua. Ok, io voglio bene a tutti, però chi non mi vuole bene è meglio che non mi cerca. Avete già. Vabbè. Comunque, tornando al discorso di poco fa, è solo uno sfogo per lui, perché poi va tutto via etere, vola nell'aria, quello che diciamo. Quello che devono fare sono i cappuccioni dello Stato che devono pensare a certe cose, non noi. Noi sì, possiamo lamentarci, però ci lamentiamo e basta, mentre invece vai in Spagna, vai in Francia, vedi, fanno guerra per tutto, guerra civile, quando non va bene qualcosa, protestano, noi ci lamentiamo, però siamo sempre buoni buoni. Giusto, in effetti quel poliziotto francese che ha ammazzato quel ragazzino senza patente, 17 anni, visto il casino che hanno fatto. Ma hanno le palle in Francia, in Germania o in Spagna. Qua invece sono tutti cagoni. Qua noi italiani siamo contro noi stessi, cioè italiani contro italiani, perché non è possibile. Io capisco che ognuno ha ambizione di potere, eccetera, eccetera, però se amministra la destra, la sinistra deve essere collaborativa e così viceversa. Se dovesse amministrare la sinistra, deve collaborare la destra e così via. Invece qua no, c'è una continua gelosia che se ne tolgono gli occhi gli uno con gli altri. Ma non è possibile che si possa andare avanti in questa maniera. Questo significa mettere in ginocchio una nazione, perché bisogna essere tutti per uno e uno per tutti. Avanti Vittorio. Hai detto una cosa giusta, non lo possono sopportare di questa perdita che hanno fatto e che è stata una vincita proprio molto esagerata, e quindi è questo che non riescono a capire. Quando uno perde, deve perdere, basta, tu hai perso, ecco, allora adesso amministro io, vediamo un po', ma deve essere un'amministrazione, però equa, non che esageri, e infatti non ci stai esagerando, però non lo sopportano lo stesso le sinistre e stanno sempre contro le destre. Ma che cazzo di casino, ma perché non se ne fregano e fanno fare quello che stanno facendo? Stanno facendo bene a mio parere. Intanto si stanno occupando di certe cose che adesso non voglio parlarne, e stanno facendo bene a mio parere. Possono essere d'accordo, la cosa è impossibile, sono state sempre di ideologie diverse, per cui non possono andare d'accordo, si controbattono l'un l'altro perché hanno delle idee diverse. Sì, ma a me già mi fa una vita quella nuova che è entrata, che assomiglia all'asinello Ciuchino, uguale, quella segretaria del PD, che ha scoperto l'America, fresca, appena entrata, ci sono 3 milioni di persone che non ce la fanno andare a fine mese, c'è la povertà, sono anche un preso, mica la povertà è nata proprio per il PD, 13 americani hanno sempre governato loro, nessuno li ha mai votati, hanno fatto quello che hanno voluto, ci hanno messo in galera, tanto di quanto l'Italia, con la musarola in bocca, con la mascherina, e si è usciti di seguire i carabinieri, e una volta mi hanno filmato, e per me mi dica, è stata farmacia, che è un prezzo, quindi automaticamente mi hanno ricevuto tre fermi in faccia, ce l'ho aggiunto io. Una vergogna a come ci hanno messo sia questo Conte che la Masu che la compagna con Speranza e quanto ce n'era. Di Maio già ho fatto molte figure per carità che è sparito. Ma guarda, no, non è inutile, si comincia Gianni, si è inutile che noi parliamo, va via nel lettere queste parole, è un piccolo sfogo che facciamo noi, ma in realtà è una cosa continua, l'unica è che io mi innando dall'Italia blu e mi innando al filo già. Non sarà forse quest'anno la massima volta che ho preso con gli addetti. E vabbè, tu dici come si sta? Ti giuro, giura che posso venire anche. Cappa perché no, tanto qua mi tremaggio un casino di soldi, hai pagato, hai lavorato una vita, ma cosa? Ma non ti danno quello che ti devono dare, no, ma sapete, per carità, meglio niente, avanti giù. Sì, diciamo che in linea di massima quello che hai detto potrebbe essere vantaggioso per te personalmente, magari che vuoi andare fuori e per cercare una vita più tranquilla, una vita migliore, ed è giusto, però io mi chiedo con questo, ma per quale motivo una persona deve essere allontanata, o meglio si deve allontanare da casa sua per poter cercare di stare meglio, quando potrebbe tranquillamente vivere sereno nella sua terra senza nessun problema? Invece no, qui è la politica che è malata, la politica italiana è malata, perché tutti vogliono comandare, vogliono, però poi in definitiva politici bravi, capaci di amministrare non ce ne sono, perché in tutto il Parlamento, sia questo che c'è adesso e quelli che hanno preceduto questo governo, politici seri, bravi, veramente non ce ne sono mai stati, all'infuori di due o tre, e faccio anche i nomi. Una di queste per me è Meloni, che è forse l'unica, la migliore in assoluto come politico italiano. Poi ci metto Renzi, che tra l'altro è anche di sinistra, vedi, sto mettendo due persone che sono in contraddizione ideologica l'uno con l'altro. È un tantino anche Calenda, Calenda potrebbe essere anche un uomo politico, ma tutti gli altri sono degli incapaci, perché di politica non ne comprendono un accidente, perché arrivano persone tipo, che so io, Di Maio, tanto per fare un esempio, e lo mandano poi in Arabia e si piglia 30.000 euro al mese di cosa, per fare che cosa? Questo deficiente che vendeva bibite allo stadio, vendeva, oppure quell'altro che c'era, quello dei banchi con le rotelle e balle varie, oppure quello delle mascherine per il Covid, ma proprio a zì, che adesso mi sfuggono i nomi, non è possibile poter sopportare certe cose, ecco perché noi parliamo. Vai Tonino, riprendi e fai girare tu poi, vai. Ma io dico solo questo, giustamente il governo precedente, il governo anche adesso, anche Meloni, anche lì in Spagna le sta facendo, perché, ripeto, non hanno studiato la geografia, devono capire una volta per tutte che l'Africa in Italia non ci sta, perché non ci sta, invece no, sempre stanno continuando a venire, ma anche se la miglia luce, avanti già. E va a finire che ci sbattono fuori a noi e che ci occupano tutta l'Italia, perché va a finire così, sono prepotenti, non fa dirne nulla che subito si girano malamente questi nigeriani, e poi nei senegalesi, io ho tanti amici senegalesi, sono veramente in gamba, sono persone che lavorano e mandano i soldi a casa e tutto quanto. Io ho un amico, Omar Sal si chiama, che vendeva fuori dal negozio, e quello mi raccontava che quasi tutti i soldi che guadagna li manda alla famiglia. Microfono, un po'. Mi senti meglio adesso? Sì, è migliorato ancora. Ok. Sì, ma Gianni, è inutile, noi stiamo lì a discutere, ma la canzone è sempre quella, non c'è nulla da fare. se continuiamo questo passo, un domani loro sono i padroni e ci cacciano fuori e dobbiamo stare sotto le loro dipendenze. Non è così, ecco perché io me ne sto andando via. Questi casini in Spagna non succedono, in Francia non succedono, in Germania non succedono, perché solo in Italia? Cos'è? La fattumiera deve raccogliere tutta questa gente. Tra poco non c'è più posto, quindi io me ne vado, perché allora spiego queste piccole parole, ma è così, per il mio carattere che ho e l'età che ho, non voglio andare a finire in galera, perché ripeto, farmi la vecchiaia in galera è brutto, allora voglio stare tranquillo, in santa pace, e me ne sto andando pure all'estero, quindi vado più tranquillo, perché qua se continuo a questo passo va a finire che mi rovineccio, perché ho un carattere un pochettino impulsivo, ma voglio evitare tutto questo, me ne voglio andare fuori, voglio stare calmo e farmi la mia vecchiaia tranquillamente. Questo è tutto ciò, avanti già. Ma non è solo per quelli di colore, e tutti i rifiuti che mandano qua, anche qua in Sardegna li hanno bloccati con i rifiuti speciali da buttare qua, capito? Cioè sta rivelando proprio come c'è la patumera da tutti i lati. Sì, ma in effetti è così. Volpe, riprendi. Il capo. Sì, noi siamo in un paradiso, ci stanno rovinando purtroppo, però uno, tutti i discorsi che noi facciamo non valgono a nulla, il problema è uno solo, quello che non si alza uno un giorno e dice oggi basta, stop. Cioè questi arrivano con i barconi rimorchiati e riportati là, in zona loro, poi partono di nuovo, presi, riportati, quando lo fai 4-5 volte, dicono fino a qua c'è il portone indietro, non ci viene più nessuno, sperando che facciano questo è che vorrei che facessero questi disgraziati che ci stanno prendendo per il culo. Questi dovrebbero fare questo lavoro qua, una volta che tu li riporti indietro e lo fai 1, 2, 3, 4, 5 volte, poi vedrai che imparano la lezione e non ci vengono più. Ma che lo facciano davvero, purtroppo adesso gli sbarchi sono triplicati. Salvini ha fatto qualche cosa tempo fa e l'ha denunziato, ne ha fatto un casino. Quell'altra tedesca con la barca speronata dai finanzieri, che se lo faceva un italiano, minimo gli dava il ergastolo. Cosa invece lì non ho regalato anche 1 milione di euro, non va bene così. Purtroppo, e poi posso dire una cosa a voce alta, la vera mafia sono i giudici, perché se un negro ammazza a te, io dico un negro che gioco razzista, che mi ha fatto nulla, lo dico di colore, se ammazza a te, lo fanno senatore, se tu ammazzi a lui, ti danno 100 ergastoli, ma è così, purtroppo sono protetti questi animali, ecco perché allora per il mio carattere che ho io me ne vado fuori, voglio evitare, a che se no succede davvero qualche giorno, lasciamo perdere. Avanti Giulio! Sì, Tony, sì, tutto sommato tu hai ragione quello che dici, certo che sì, però anche mettiti nei panni dei tuoi conoscenti, dei tuoi parenti, di tutti quelli che ti hanno conosciuto la vita, che hai sempre avuto dei buoni rapporti, eccetera, eccetera. Per quale motivo io, per dire amico di Tonino, devo rinunciare all'amicizia di Tonino perché lui è stato costretto a scappare dall'Italia? Bisogna fare anche questi ragionamenti, bisogna fare, non solamente pensare, Tonino se n'è andato per cercare di vivere una vita più serena e più tranquilla, ma io che rimango qua, per quale motivo devo essere, perché devo essere obbligato a rinunciare ad esempio all'amicizia o agli affetti dell'amicizia o i parenti tuoi devono rinunciare a vederti tutti i giorni come è sempre stato in tutta la vita? È questo che mi chiedo io, Tony. Premesso che tu hai ragione, uno se ne va fuori per cercare di migliorare, d'accordo, è una tua volontà e va bene, però ci sono anche tante conseguenze poi su di una persona o di tante persone, Tony. Sì, ma ripeto, io la penso in questo modo perché conosco il mio carattere e sono impulsivo. E quindi voglio calmarmi di brutto, ma calmandomi lo voglio fare in terra straniera, perché qua a Sassari, in Sardegna, in Italia non lo puoi fare, perché sono troppo questi ergumini che rompono le palle, scrivo di essere secchi, poi va a fine che uno mi esiste sotto mano, lo mando al creatore e poi sarà Gesù a condannarlo, capito? Ma io lo mando sopra. Allora niente, io arriverò un giorno fuori il lutto che Giulio dirà camminetto lì non arricciato, in giornale, ammazzato di un grammo di vizia. Va bene, perché? Vuol dire che è arrivato a un punto che non ce l'ha fatta più. E quindi arriverò qualche giorno a venire a trovare gli amici, perché no, quello lo farei sempre, non c'è problema. Mi dispiace, lo so, è un peso per me andarmene via, lasciare gli amici, i parenti, eccetera, eccetera. Hai ragione, però ripeto, io voglio finire i miei anni, non so quanto dura ancora. A dei 10, 20, 30, poco la vima, però ripeto, voglio farle sereno, capito? Basta quei casini, no, voglio evitare, giuro, non è più voglia, basta, perché mi conosco troppo bene, voglio fare da bravo e basta. Avanti Gianni. Vabbè, ma io non è che sia tanto d'accordo, perché bisogna lottare, bisogna cercare di ottenere ciò che si vuole. Noi siamo gli abitanti dell'Italia e noi dobbiamo pretendere certe cose come fanno gli altri paesi. Tu non è che devi scappare non è risolvere il problema. Il problema si risolve contestandolo. Gianni, io non sto scappando, io voglio evitare di rovinarmi, quindi non ce la farai mai, tu dici quello che bisogna ribellarci a farci capire queste persone, no, perché fra un giorno, non saprò quando, però è come che siete 10 uomini contro 2.000 persone, queste 2.000 persone sono gli extracomunitari, e cosa fate voi, busci che saboni, perché vi schiacciano, entrano anche le potere e fanno le padrone, quindi per arrivare a quel punto è meglio evitare. Allora io vado a rilassarmi in un posto dove spendo poco, il governo non mi mangia tutte le tasse e faccio una vita da nababbo, perché con la mia pensione io faccio una vita da nababbo, perché c'è andata già l'amica mia e sta bene ed è ancora lì, quindi Tenerife sta troppo bene. Avanti Volpe. Caffa, sì, non hai torto il ragionamento che hai fatto e non fa una grinza, però il problema è che non può uno andarsene via perché poi bisogna vedere, adesso non so che età abbi tu, per carità, ma parlo in base all'età, perché se c'hai un'età magari superiore a quella mia o quella di Giulio, non so se è conveniente farti 4, 5 o 6, 10 anni anche, che è bello, 10 anni non sono pochi, ma se uno ha 80 anni, per dire, cosa se ne va a Tenerife? Perché lì è il punto chiave di star bene, con una pensioncina che si vive da nababbo. Però il problema non è quello, il problema è che noi siamo succubi di dover purtroppo ancora stare a queste condizioni, perché nessuno ancora fa niente per risolvere questi problemi, e questo è il nocciolo del discorso. Quindi il criterio di questi politici, che sono dei criminali, ma non i politici, attenzione, gran parte dei politici anche, ma io includo anche i magistrati, che sono loro che si stanno influenzando nella politica senza averne titolo, e quindi sono questi che stanno facendo dei casini madonnali. Quindi i criminali veri sono quelli là che hanno nominato poco fa, magistrati. Sì, ma in effetti è proprio così, perché io mi ricordo a tempo dietro, quando governava ancora Alpini, e neanche a fare la posta in ristorante c'era questo bel giudice, dico bel giudice perché me lo avrei sparato, e neanche a fare la posta c'era anche l'attore Franco Nero, lì stava mangiando con la moglie eccetera, questo giudice, parlando un discorso che ero vicino di tavoli, ha detto: se mi entra Berlusconi in mano li faccio un mazzo così, fatto, è vero che poi caso strano c'era lui, e quindi l'hanno stato condannato. Per dirti, i giudici, e purtroppo Berlusconi può dare fastidio, ha dato molto fastidio a molte persone, e quando una persona governa dà fastidio fanno di tutto per cercare di eliminarlo, capito? Questo purtroppo è il governo italiano. Il PD vuole sempre mangiare lui, sappiamo benissimo che l'ha messo la Fornero, quindi è il PD che ci ha crepato, addirittura in Francia l'ha fatto casino per 61 anni, dalla pensione per 63 anni hanno fatto casino per 2 anni, noi siamo 67 anni e 10 mesi e nessuno ha fatto casino, questa è l'Italia, questo è il PD. Poi la Rosemini cosa aveva fatto? Chiuso gli ospedali se non c'era minimo 100 500 ricoverati. Prodi ha messo l'euro, ci ha messo in ginocchio, vedi, sempre il PD, PD, io lo odio il PD, ma stiamo scherzando. Ecco, è vero, per evitare, perché se uno dice sì, meglio che torna il PD, lui in quel momento gli tirerei un pugno a faccia e gli legavo tutti i denti, perché odio talmente il PD che, per carità, non ne voglio più sentire. Quindi, no, no, guarda, lascia perdere, non me ne frega per niente, voglio stare calmo, sereno, tranquillo. Comunque il Volpe, io compio 69 anni a settembre, me ne porto abbastanza bene, non ho, diciamo, tutta questa vecchiaia che ho addosso, non me ne sento e forse sono più arzillo di prima, non ti dico altro. Quindi io a 10-15 anni me ne farei ben volentieri fuori. Sì, riprendo io, Tony. Beh, certo, se, ma questa è la tua volontà e sono contento per te, non ci sono dubbi. Però io parto sempre dall'idea, ma per quale motivo un uomo che ha vissuto una vita nella sua terra, insieme ai parenti, insieme agli amici, insieme alle sue abitudini, ai suoi vizi, o agli stravizi anche, perché uno può avere anche degli stravizi, eccetera, nella vita, tutto, per quale motivo deve essere costretto con la sua pensione sudata per una vita di lavoro, costretto ad andarsene fuori? Per quale motivo? Questo io mi sto chiedendo, premesso al fatto che poi ognuno ha le sue idee e i suoi soldi, si va a spenderseli dove vuole, non ci sono lui. Io non sto dicendo che quello che vuoi fare tu sia sbagliato, no, assolutamente. Io mi pongo il problema, per quale motivo un uomo, perché se tutti sei stato pienamente soddisfatto della nostra Italia, della nostra terra dove stai vivendo, queste idee non ti sarebbero venute in mente, questo è scontato. Poi per quanto riguarda il discorso dei magistrati, è meglio non fare danni, per carità, ma se pensare che adesso in quest'ultimo periodo non sanno dove attaccarsi questi del PD, perché i magistrati, lo sappiamo, sono tutti di sinistra, ne hanno tolto poco di chiacchiere, è il figlio di La Russa che ha violentato non so chi, chissà se è vero, magari hanno pagato con la ragazza per dire queste cretinate. Uno, a Del Mastro lo stesso, lo scandalo Del Mastro, lo scandalo dell'altra, quella donna ministra del turismo, eccetera eccetera, e tanti altri. Ma è possibile che in questi giorni tutti in una volta la magistratura si è svegliata e ha mandato in causa tutte queste persone? Ma dai, sono solo falsità che vengono fuori da certi enti, da certe istituzioni, per andare sempre contro il governo. Ecco qual è il problema, e questo non me lo toglie nessuno dalla mente, Tony. Ma la Russa, diciamo, se il figlio ha fatto quello che ha fatto, giustamente deve essere condannato, eccetera eccetera, ma non è che c'è colpa il padre. Tornando poi indietro nel tempo, il figlio di Grillo, che ha fatto quello che ha fatto, deve essere condannato, ma Grillo è sempre un pagliaccio, perché ha fatto lo stronzo sempre, perché l'avrei preso tutto quei pugni a faccia che non lo muovo subito io, guarda, e mi ha dato che non lo trovo mai, perché ero da poco anche a Obbia, cosa smeralda, giro un po', perché mi ha talmente antipatico, ti giuro, perché ha fatto il buffone nelle piazze prima di entrare al governo, ha detto queste parole qua: il PD ci hanno rubato tutti i soldi, ci facciamo tornare tutti i soldi indietro, e poi si è alleato. Mica sei un pagliaccio a vino, sei proprio, guarda, ci sputa il piatto, le mangia, poi se ne va via, manco lui lo sa, è un pagliaccio. E quindi niente, purtroppo sì, i giudici sono quelli che sono, la mafia è proprio lì, non puoi farci niente. E allora, siccome c'è, diciamo, una vita troppo brutta, si sta dimostrando in Italia, meglio evitare e fare, non so, mi dispiace andare via un domani, però sarò costretto, e purtroppo, io mi auguro che cambia, se cambia ok, rimango qua perché io sono affezionato alla terra della Sardegna, quindi mi auguro che cambi, se non cambi pazienza. Gianni si è parcheggio, non ti addormentare, che fra poco devono salire su a mangiare le pizze. Gianni si è addormentato. E forse si è allontanato per un attimo, forse che sia il telefono o ma è così, in effetti è così, perché aspetta, cioè il discorso è molto ampio, si può allargare, possiamo stare tutta la notte parlando di questo particolare, non verremo mai a capo di niente, questo lo so benissimo, però questo nessuno ci impedisce di parlarne, perché la realtà è evidente davanti agli occhi di tutti, per cui adesso tu, ma dimmi tu, aspetta, fanno in periodo di elezione, di campagna elettorale, un capo del governo, come la Letta, che va in Germania a prendersi il soccorso da parte dei tedeschi, quando lui ha sempre criticato e la sinistra ha sempre criticato la Letta fascista. Per lui è andato nella nazione dei nazisti. Più fascisti di chi ne vuoi, più fascisti di te che ne vuoi, ma non è possibile che un capo di Stato come la Letta un capo di governo come la Letta possa andare a prendere soccorso per andare contro la destra italiana. Vergognoso veramente, Tony. Purtroppo è così, Giulio, non puoi farci niente. La vita è questa, la devi prendere come viene. Se tutto cambia, allora io dico questo, hanno chiuso anche la censura, hanno messo per la TV per far vedere quanti sbarchi fanno al giorno, capito? Però qualcuno furba Obbi ha visto questo aereo atterrare, ma non solo turisti, ma erano tutti quanti extramilitari, 178. E io l'ho divulgata su Facebook pure. È una vergogna, è proprio una vergogna. Non si può, diciamo, prendere questi animali, dico animali che sono animali, a chi sono tutti maschi, prepotenti, se tu dici va a far culo uno, se ne vengono in 10 a picchiarti, capito? Io una volta lo stesso a uno mi ha rotto le balle, ho detto va a far culo e sono usciti in 5, ho detto guarda, a uno, vi apro in due come ieri, non hai capito? Perché se voi vi picchiate, via a uno vi cerco e vi cazzingheggio, vi sacco il gusto, per agire tu già nel tondo. E poi l'altro si mette a fare ad ogni tipo francese, ma tanto vi danno, e si sono allontanati. Ed è finita lì, meglio che è finita con gli francesi. Cioè, di male che a me una giusta, cioè mi capoteggia, ma no, se uno l'ha già avuto, ma è ne ha già dato. Ma ripeto, non me l'ha fottuto dai clienti, io li posso sempre, chi se devo fare. Va bene, dai, comunque è inutile che noi ci scaldiamo, tanto noi non facciamo i piccolini in confronto a loro, non possiamo fare niente. Eccetera, il governo, la Meloni, sì, mi piaceva, però sta facendo cose sbagliate, tante sbagliate, a parte che dei comunitari. Non diciamo altro, perché il dare delle, diciamo, soldi e bombe a questo Zelensky è un'altra rottura di cose, per carità, non me lo fa dire. No, io sono contrario, perché è vero ciò che hanno detto, cioè tu gli dai altre armi, non vuoi che ci sia la pace, meglio continuare la guerra. Oh, adesso sappiamo che l'Ucraina ormai è, diciamo, non tutta ma quasi distrutta, molti non ne parliamo, chissà perché la Russia non c'è neanche una casa rotta. Ma lui si è messo contro la Russia, ma stiamo scherzando, che Putin, che non gliela fuzzi nulla, se si incavola ci passiamo tutti quanti, è meglio fate da bravi, per carità, non conviene, è tutto un casino. Vediamo un po' se Gianni è rientrato. Gianni? Sì, sono rientrato, ho avuto sicuramente un abbassamento di pressione, mi sono addormentato dal caldo che c'era. Non me ne sono manco accorto, probabilmente ho la pressione bassa, dopo devo andare a misurarmela, certo sto per chiudere. E vabbè, inutile stare a parlare qua a Turin, anche perché adesso, facendo memoria, sulla concessione c'era scritto che non si poteva parlare di politica al baracchino. Non puoi parlare politica, ma se ti stanno distruggendo, ci hanno chiuso in galera in casa nostra, ci hanno messo il bavaglio per non parlare, se uscivi ti seguivano i carabinieri e ti facevano la multa. Allora siamo in democrazia e quindi abbiamo tutti i diritti di dire quello che pensiamo, cosa politica, perché politica abbiamo tutti i magnacci, abbiamo il governo, lasciamo perdere, senza parlare della magistratura. Ma oi, volta riprendi. Ci hanno assassinato con la pandemia, tutta una falsa, cazzo, quello è poi tutto un altro discorso, è meglio non parlarne, ci hanno rovinato i disgraziati. E niente, il problema è solo quello là, ricordiamo sempre quel discorso là, però se è contro la Meloni, un pochettino mi sono accorto, ma la Meloni adesso è in giro, sta sperimentando, perché una donna, una ragazza intelligente, sai, tiene presente che conosce un sacco di lingue, e quindi ovunque va, parla inglese, francese, cioè, sta sperimentando, è una ragazza studiosa, a mio parere, e questo periodo qua, e siccome è da una parte o dall'altra del mondo, probabilmente sta, come dire, sperimentando e scavando quali sono i sentimenti delle altre nazioni, perché i precedenti purtroppo non hanno fatto un cavolo, dalla mattina alla sera non facevano altro che mangiare e bere nei ristoranti. Quindi questa ragazza si sa dove da fare, se tu segui il telegiornale, non lo so, però io lo seguo, e quindi è attenta evidentemente per esplorare queste cose al fine di risolvere qualche problema. Questo fatto delle armi sono state date a questo popolo, sì, è vero che, ma se non faceva così, se cosa faceva il puttino? Il puttino, perché un pezzo di stronzo, si sarebbe possessato di quel popolo, non il popolo in sé, l'uomo o la donna che vive lì, ma del territorio, e quindi quel territorio sarebbe diventato russo. Perché tu ti devi possessare di quello? Allora l'America è intervenuta, anche loro hanno collaborato a dare delle armi, la Francia, tutti quanti hanno collaborato, perché l'Italia no, e noi abbiamo fatto la nostra parte, giustamente, magari tu dirai esagerata, non lo so, però un po' di aiuto bisognava darlo tutti quanti, come lo danno la Francia, lo danno la Spagna, lo danno tutti, e l'Italia no. E noi di cosa siamo? Siamo tutti collaboratori dell'America, e quindi in qualche modo questo è stato necessario, ti devo dire questo, Tony, abbi pazienza, però questo era necessario puntualizzarlo. Mando il mic a Giulia. Ok Vito, sì, beh certo, col fatto del fatto atlantico giustamente dobbiamo essere d'accordo, avete considerato che facciamo parte di quella cerchia lì, è normale, no? Certo che sì, però per dirti come funziona la vita che ci impongo, perché tutto sommato ci stanno imponendo loro la vita, non è che ce la stiamo facendo al nostro piacere, così al nostro gradimento, no, ci stanno imponendo loro una certa vita. E poi il fatto della guerra non sono d'accordo nemmeno anch'io, perché quei soldi che noi mandiamo e sprechiamo per l'Ucraina l'avremmo potuto dare per dire ai lavoratori, a quelli che hanno il salario basso, ai pensionati, quelli che hanno la pensione bassa, e fargli vivere in maniera un pochino più dignitosa. Purtroppo così, la politica è così, però andiamo avanti con la politica. Adesso lasciamo lavorare questa donna, c'è 8 mesi, io ritengo che sia la politica migliore che c'è, cioè la persona politica che veramente ne sa di politica, se intende. Tutti gli altri sono tutti dei magnacci, un pochino mi potrebbe andare bene Renzi e le cose, sempre parlando di politica, non delle idee che ha Renzi o Calenda, quelli sono gli unici personaggi che si intendono veramente di politica, tutti gli altri sono dei buzzurri che non capiscono l'accidente di politica e sono lì per caso, come tante altre persone è sempre successo, ma dai, comunque è andata così, pazienza. Vabbè dai, adesso faccio l'altro giro, poi devo interrompere anch'io per la terapia. Riprendi Gianni, ci sei? Ehi, dai, io riprendo, vi saluto tutti cordialmente, sto scendendo giù a portare il cane perché adesso voglio anche riprendermi un po' d'aria, perché oggi ho preso tanto caldo e mamma mia, anche se ho acceso il condizionatore, sono dovuto uscire da casa, sono andato a comprare roba, poi me l'hanno sbagliata, sono dovuto tornare, un casino, guarda, oggi proprio è andata proprio male, dai. Ok, riprendo io, ho cambiato di nuovo il microfono perché il cane mi pezza in mano, che non c'è posto qua. Sì, qualche punto di riferimento, Volpe, tu dici Putin, io posso dirti una cosa, Putin ha ragione, e ti spiego il perché, tornando indietro nel tempo, perché io conosco un'amica mia che è ucraina, il signor Zelensky ha ammazzato oltre 5.000 persone nel Donbass per avere il tutto a conto suo, e questo abbiamo saputo, è da lì che Putin, guarda che questa guerra era già pronunciata di 14-15 anni fa, quindi è scatenata l'anno scorso, però io le cose mi informo, poi me le guardo, le controllo, vado lì sull'internet e controllo, certo, queste cose qua, invece abbiamo per questo motivo qua. Non si può lui permettere il lusso di chiedere armi tutte le nazioni, perché è un grande buffone. L'America vuole presa e bombardata, 10.000 bombe atomiche e tutta distrutta, perché l'America fa questo soltanto per interesse, perché il Kuwait giustamente è intervenuta, beh, ci ha mangiato, giustamente sta continuando a mangiare, e l'Ucraina per il secondo tempo perché lo sta facendo, perché c'è da mangiare, c'è tutto il frumento, quello che c'è, se c'è interesse, guarda se lo fa su un colso, ma anche adesso eccetera che c'è la guerra, perché non interviene là, e là c'è la povertà, non c'è nulla da rosicchiare, capito? Questo America vuole essere tutta padrona a lui, ma che venga, gli venga un infarto immediatamente a questo presidente americano, pezzo di pinguino, non è che ce l'abbia luci, ma va bene, dai signori, mi è piaciuto questo piccolo pezzo, io devo anche correggere perché devo andare a prendere il pizzetto. Vi saluto cordialmente, grazie per il pezzo, se ci sentiamo la prossima volta mi fa piacere, Volpe. Ciao Volpe, saluto la Corea, ciao Giulio, ciao Gianni e Vittorio Ascoltone. Come ritengo da parte mia, causa il 7. Riprendi Giulio, ciao ciao. Ok Tonino, ok, sì, è stato un bel questione stasera, dai, abbiamo passato un po' di tempo tranquilli discutendo, anche se magari siamo un pochino forse alterati, ma in maniera molto benevola, niente di più, siamo soddisfatti, ci siamo sfogati, in poche parole, ecco, mettiamolo in questo senso. Ciao Gianni, intanto ti saluto e ciao Tonino, grazie per il questione a tutti e due, a risentirci presto. Anch'io devo chiudere perché devo fare terapia, è arrivata l'ora, come tutti i giorni, per cui anche quella è una condanna, non c'è problema. Vabbè, adesso anche tirare avanti, dai. Ciao Volpe, alle prossime, fatti sentire intanto che tu sei un po' troppo assente, se consideriamo gli minuti che passiamo noi al baracchino nei tuoi confronti, tu sei proprio in ritardo nei nostri confronti. Ciao Volpe, alle prossime. Io ascolto Finalino e dopodiché chiudo, Grazie ancora a tutti per il questo, ci sentiamo. Ciao ciao, ciao Tonino, Gianni e Volpe. Ciao, riprende Volpe. Ciao Giulio, buon proseguimento serata, Correa e tutto quanto. Saluto Gianni e anche Tonino, dai, anch'io dovrò chiudere perché sono rimasto solo, ma io dovevo andare via da prima, ma purtroppo mi sono trattenuto, io sono sempre impegnatissimo e non è che abbia molto tempo per rispondere a te o Giulio, non ho molto tempo a disposizione, io sono impegnato con la musica e sono sempre un po' incasinato e quindi questa è stata una serata proprio buca e mi sono dedicato, ho detto ma lo accendo, vediamo un po' se sono a sfogarmi un pochino e questo l'ho fatto. Buon proseguimento a tutti comunque, dai, buon proseguimento ancora e ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao a tutti, ciao Tony, ciao ciao ciao ciao, ciao.